La Zanzara. Eccoci di nuovo in diretta con Gianluca Buonanno della Lega Nord, con Fabio Evangelisti dell'Italia dei Valori, che però dopo le cose che sono successe ieri devono fare pace qui in diretta a Radio 24, sì. Assolutamente. Allora, io volevo fare una domanda però a Evangelisti. Sì. Se le cose stanno come lei me le ha raccontate, sì, come ce le racconta Buonanno, avete qualche, sì, piccola, diciamo, differenza sulla ricostruzione, sì, ma più o meno ci siamo. Perché lei ha preso 15 giorni, Evangelisti? No, intanto sono 12 giorni. 12, vabbè, quelli che sono. È meglio 10 più 2, cioè 10 al pari di Rainieri, che è, sì, quello che è venuto più vicino a me, e 2 in più perché io in quel momento avevo la responsabilità di capogruppo del mio partito nell'aula di Montecitorio e quindi dovevo avere un comportamento Ho più capito. Dignitoso. Però ha preso 10 giorni come Ranieri, uguale. Esattamente, più 2 per questo motivo. Ho capito, 10 giorni come Ranieri significa che, secondo il Presidente della Camera, perché i suoi... Effettivamente, quando poi Ranieri è arrivato vicino a me, io ho avuto lo stesso suo comportamento. A quel punto, se non ci avessero diviso i commessi, io per legittima difesa l'avrei picchiato. Perché... Buonanno, lei dov'era? Un po' più dietro, diciamo. Molto, no? Più dietro. Lui era su un banco. Perché, perché alto? Perché alto? Basso? 1,65? No, io sono un diversamente alto. Senta, ma Evangelisti, lei lo sa che Buonanno la chiama Wanda Osiris? A me? Sì. No, non lo sapevo. Un gran bel complimento. No, no, perché quando scendi le scale lì del Parlamento mi ricordi Wanda Osiris. Perché io, classe, mica come voi che saltate sui banchi come le scimmie. Scusami. Ridaglia con le scimmie un'altra volta. Ora, voglio sperare che si sia compreso che voleva essere un tono scherzoso. Beh, insomma, non credo che Buonanno l'abbia presa bene. Non credo, no, che... però, no, ma neanche lui mi vuole offendere se mi paragona a Wanda Osiris. Stiamo giocando. No, no, certo. Vabbè, insomma. Va bene, Gianluca, sei d'accordo? Sì, guarda, bisogna, voglio per dire proprio una cosa di da... Cristiani e per gli ascoltatori della Zanzara. Appunto, cioè, non abbiamo fatto, nessuno ha fatto una bella figura.